Bene, allora direi che possiamo iniziare la nostra serata, il nostro incontro con Marina Manganaro, che ringrazio e saluto, e voglio farle anche un complimento perché stasera è scintillante, fantastica. Mi sono vestita come il mago Zurlino. Volevo fare pandan con qualche... Sperando di... con la magia di attirare il pubblico. Bellissima mago. Giacca, devo dire. Esatto, disco, mi piace. Bene, concedeteci questa piccola scivolata sulla Marcord degli anni Ottanta. La ringrazio in particolare perché era già venuta l'anno scorso con questo bel libro di Mamma ce n'è una sola, per fortuna, che è stato veramente simpatico, ma anche spunto di grande riflessione, penso, per tutti noi, perché è un tema che ci tocca. Tutti hanno avuto una mamma. Quindi, insomma, di lì non ci piove, il rapporto è quello che può essere con alti e bassi, idilliaco ma anche complicato, però Marina ha saputo ricostruirlo e dare tanti spunti anche divertenti. Nello stesso tempo adesso abbiamo la possibilità di ascoltare così la presentazione del suo nuovo romanzo, Ciclisti d'inverno, che è tutta una sorpresa perché a discapito del titolo c'è una storia che si sviluppa in una maniera anche diversa, con sorpresa. E ricordo che Marina è, oltre a una persona di grande spessore culturale, attivissima, impegnata su tantissimi fronti, la seguiamo da anni, e è anche da poco, come qui con noi Franca Carol, membro dell'associazione Scrittori di Bolzano, ecco, che è una nuova realtà che ci così aiuta e ci accompagna in questo nostro percorso della scoperta degli scrittori altoatesini. Colgo sempre queste occasioni per ricordare che la biblioteca organizza dei corsi di BiblioWeb ogni martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 per imparare ad usare la piattaforma digitale. Partiremo con il 6 febbraio dalle 17 alle 18.30 con gruppi di lettura. Se qualcuno ha delle proposte, siamo sempre molto contenti di ricevere anche suggerimenti. I gruppi di lettura sono dei momenti collettivi di persone dove qualcuno conduce, legge, sceglie un percorso. Il tema che viene proposto per martedì 6 febbraio sarà letture di Tabucchi da parte della professoressa Giovanna Mengarda e da Simona Nicita. Quindi vi invitiamo a partecipare e ad aiutarci a far varare questo primo esperimento che vogliamo, speriamo, di portare avanti con successo e soddisfazione da parte del nostro pubblico. Altri appuntamenti li abbiamo, sono sempre stampate delle cartoline a disposizione del pubblico, ma vi raggiungiamo solamente ormai con l'indirizzo web, quindi se avete piacere vi iscrivete alla biblioteca, è tutto gratuito e vi mandiamo le informazioni. Il prossimo lunedì ci sarà un libro di storia romana e diritto romano del professor Baldessarelli, lunedì alle ore 18, e poi ci sarà un libro invece giovedì, giovedì 1 febbraio sarà la volta del libro di psicanalisi e archeologia, Freud e il segreto di Atena, a cura di Francesco Marchioro con Lucio Giudice Andrea. Quindi spaziamo un po' dal diritto romano, dai romanzi anche alla psicanalisi, insomma stiamo cercando di dare più aspetti, ecco, più stimoli. Marina, io ho rubato anche troppo tempo alla tua presentazione. No, io ti ringrazio perché nel frattempo sono ingrassata di un paio di chili, non ne avevo bisogno, ma con tutto quello che hai detto su di me. Benissimo, allora mi siedo fai il pubblico. Magari anche ne approfitto per usare, no, ecco, così va meglio, perché io mi sono messa qui non in mezzo. Wow. Eccomi qui. Allora, devo dire che io questo libro lo volevo presentare in prima assoluta, ovviamente presso la biblioteca Claudia Augusta, qui al Centro Trevi, che insomma è prestigioso, insomma, più di altri luoghi, però purtroppo non c'era posto, nel senso che il trasloco estivo aveva scombinato un po' tutti gli appuntamenti, eccetera. Allora, essendo il libro uscito in settembre, io in ottobre l'ho presentato alla mia biblioteca, anche con la quale ormai non ho più nulla a che fare, e quindi c'è stata una presentazione dove è venuta molta gente. E chiaramente nella stessa città la seconda presentazione non può andare altrettanto bene, è inevitabile, non possono arrivare 100 persone. Perché Bolzano è una città piccola e io non sono Susanna Tamaro, insomma c'è poco da fare, il mio è un nome sì relativamente conosciuto, ma non sposta le masse oceaniche. Ciò non toglie che a me vada bene comunque, perché le persone, poi non siete così poche, vi ho contati, siete 15, che è già un buon successo. Allora, incomincio da ciò. Beh, prima due premesse. Allora, questo libro che si presenta così bene in questa bella copertina, mi hanno detto che deve essere una piazza di Amsterdam, ovvero una città in cui viene molto usata la bicicletta. Come? Sì, a me sembra spento. Wow, no? Adesso sì, adesso va meglio, sì. Prima era forse un po' basso. È purtroppo un libro ricco di refusi, che non sono un dono. È successo qualcosa con la casa editrice, che è remota perché è di Roma, e i miei contatti erano molto sporadici e oltretutto anche con dei lunghi intervalli tra uno e l'altro, tra un messaggio e l'altro, due o tre mesi. Io ho raccomandato loro di controllare le bozze, di controllarle bene, perché io sono una produttrice industriale di refusi, insomma, cioè, è uno dei suoi limiti, è un leggero handicap, insomma, ci sono varie forme, insomma, di disabilità. Io ne ho una con le mani, la manualità, e quindi anche con le tastiere. E loro hanno detto sì sì, poi quando si è trattato di correggere le bozze erano passati 3 mesi, e nel frattempo mi sono arrivate queste bozze corrette con le segnalazioni in giallo di tutto ciò che gli erorucci, no? La mancanza di una E, no, la punteggiatura non l'hanno neanche guardata, magari non so, un plurale al posto del singolare, insomma, quelli che si chiamano errori, non di distrazione, refusi per l'appunto, perché non sono errori né di grammatica né di sintassi, fortunatamente. E mi sembravano un po' pochi, dico, accidenti, sono stata così brava a farne così pochi di errori, invece, e ho pensato che loro avessero corretto direttamente, senza segnalarmi, perché se io scrivo uno studentessa, cioè, talmente chiaro che si tratta di un refuso che neanche va segnalato, insomma, non devo essere d'accordo o meno sul cambiamento dell'uno in una. Invece no, invece ne hanno lasciati tutti gli altri che non hanno visto, li hanno lasciati tutti. Io non l'ho più riguardato, mi sono fidata, perché una precedente casa editrice invece mi aveva fatto una correzione perfetta, virgola per virgola, e così adesso voi vi ritroverete, e mi dispiace, perché mi sembra quasi una forma di maleducazione da parte mia di presentare un libro che contiene degli errori. È leggibilissimo comunque, sia ben chiaro, insomma, non sono errori che scombinano la trama, il plot, che so io. E poi questo, a differenza del libro sulla mamma, è un libro politicamente un po' scorretto, ovvero io utilizzo un linguaggio sempre ironico naturalmente, ma ogni tanto arricchito dalla trivialità, dal linguaggio comune, c'è qualche parolaccia, insomma. A qualcuno dà fastidio, a qualcun altro no. Io continuo a leggere, sto leggendo in questi giorni questo bellissimo libro di Teresa Ciabatti, La più amata, e ne ho trovate di parolacce, quindi voglio dire, sono in buona compagnia da questo punto di vista. Ecco, queste sono le due premesse che dovevo fare. E poi questa è una considerazione che ho fatto ultimamente, mi spiace per voi che sarete i primi a sentirla. Diciamo che questo è il terzo romanzo di una trilogia, che è la trilogia della liberazione e anche della fine. La fine di qualche cosa, non della vita naturalmente, ma che coincide con una liberazione. Allora, nel primo, che non è stato editato da una casa editrice, però vedo che la biblioteca Claudio Augusta ce l'ha, ed è dell'invecchiare il titolo, percorsi consigliati chi ha la fortuna ambigua di vivere alla terza età, diciamo che tra i profitti, molte sono le perdite nell'invecchiamento, ma tra i profitti c'è anche questa forma di liberazione, finalmente. Una liberazione, beh, possiamo immaginarci da quelle che sono le passioni, le infelicità, gli amori sbagliati, che che poi vengono ritrattati anche in questo libro, ma soprattutto segna l'attraversamento del guado finalmente, no? Il passare dall'altra parte. Oggi ha inizio la mia senilità, e diciamo che questo si riflette molto anche sul corpo. Il corpo è qualcosa di importante nella nostra vita, insomma, c'è poco, non possiamo escluderlo, che lo abbiamo curato o meno è di per sé la prima cosa che si presenta agli occhi degli altri. Allora diciamo che con questo libro dell'invecchiare io ho chiuso, nel senso che potrei dire, con l'apparizione del corpo, il corpo che deve apparire, il corpo invece è il corpo della persona che incomincia a invecchiare, che è anziana, non ha niente insomma da esibire. Infatti mi sono messa la giacca d'argento, giusto perché appunto per coprire qualche manchevolezza, e basta, no? Naturalmente attorno al corpo poi girano tante cose, la seduzione, gli amori, la competizione, ecco, questa diciamo che la terza età, peccato, si deve arrivare alla terza età per provare questa liberazione, che la liberazione poi è stato un concetto molto importante anche ai tempi del femminismo. Si parlava di emancipazione, che era il femminismo più istituzionale, quello dei partiti e dell'UDI, donne italiane, e il concetto di liberazione. Allora, l'emancipazione sappiamo cos'è, non occorre che io la stia a spiegare, insomma, l'autonomia economica da parte delle donne, l'opportunità e quindi le pari opportunità di fare carriera, di realizzarsi anche al di fuori della famiglia, di diventare, di ricoprire ruoli importanti, apicali nella società, nella politica, nell'amministrazione pubblica, eccetera. Su questo non ci piove, nessuno avrebbe il coraggio di dire, lo dice magari soltanto al bar, questa, la donna non possono fare l'ingegnere perché hanno le mestruazioni, insomma, ecco, perché una volta era così, adesso ormai è suggellata questa uguaglianza, no? Il fatto che le donne possano fare quello che fanno gli uomini e anche meglio, questa è l'emancipazione. La liberazione cos'è? La liberazione per certi aspetti era proprio quasi il contrario dell'emancipazione, perché il femminismo è stato un po' macchia di leopardo, come si dice, no? C'erano stati vari femminismi. Quello che più radicale e anche più radicato, che probabilmente passerà alla storia, è quello, diciamo, che ha un'origine filosofica, che fa riferimento a Luisa Muraro, alla libreria delle donne, le filosofe del gruppo di Otima, eccetera. Il loro concetto di liberazione, sì, posso immaginare, poteva essere quello di appunto non apparire più, dimenticarsi del proprio corpo, non tingersi i capelli, non portare scarpe col tacco, cioè non rendersi più subalterne a una cultura patriarcale, al maschilismo, al patriarcato. Non è così facile, in pochi decenni direi, no? Ribaltare quello che è un ordine simbolico, come si dice, tutto maschile, un potere che è ancora un potere sociale, no? Quindi il potere è quello che domina l'opinione pubblica, non tanto il potere all'interno di un luogo di lavoro, no? Quanto proprio il potere sociale, che è quello che facilita per certi aspetti la vita degli uomini, che possono agire in modo molto più libero rispetto alle donne. E quindi liberarsi significa proprio non adattarsi più a uno stile di vita che voleva mettere, per esempio, molto in evidenza la femminilità, l'essere femmine, non maschi. Non a caso questo femminismo, io lo dico perché ci ho un po' sofferto pensando e riflettendo, era di tipo omosessuale. Quindi l'uomo rimaneva fuori dalla porta, anche di casa. Cioè loro sostenevano molto la necessità che le donne anche lavorassero con le donne, finché si formassero delle forme di, non di potere, ma di orizzontalità, no? Non più la piramide, non più l'uomo che comanda e sotto le donne che obbediscono. E però questi esperimenti, diciamo, che sono clamorosamente falliti, potere, quindi anche quando raggiungono le donne, le dinamiche poi alla fine sono sempre le stesse. Ecco, io allora, che non mettevo i tacchi alti, ma però mi vestivo, questo è niente in confronto, insomma, cioè, mi piaceva molto esibire l'abbigliamento, anche esibire il corpo, come tutte le donne, che più o meno tutte quelle che hanno avuto, hanno un aspetto discreto, piacevole. Quindi io non sono riuscita mai a recepire, a fare mia questa necessità, questa istanza di liberazione di quel tipo. Ecco che arriva la vecchiaia. La vecchiaia, appunto, come dicevo prima, la vecchiaia, insomma, la maturità, la maturità avanzata, appunto, libera non soltanto dalla esibizione del corpo, ma per esempio anche la competizione, finisce le forme di certe forme di antagonismo che si lasciano alle spalle, perché ci sono le persone più giovani che stanno andando avanti, mai una settantenne potrebbe mettersi in concorrenza con una trentenne, voglio dire, sul piano anche delle facoltà intellettive, insomma. Quindi c'è questo sospiro di sollievo che si trae per non dover essere più nel mondo in qualche modo armate, no? Per dimostrare di essere qualcuno, e accontentarsi invece delle piccole cose, insomma, quello che la vita riesce a dare al di là delle lotte per la sopravvivenza. In questo libro, infatti, la liberazione di Giuditta, la protagonista, fa proprio riferimento, diciamo, alla sua vita sentimentale. È una vita sentimentale sui generis, perché è la storia di una donna singola. Si capisce che lei è singola perché è l'ultimo dell'anno a casa sua, di fronte a un albero di Natale che è quello del giardino, e i miei vicini, i miei compagni di pianerottolo forse lo conoscono, non lo fanno più. Nel condominio rosa, quello che sta un po' più dietro il nostro, facevano un bellissimo albero di Natale pieno di luccichi, di lampade, lampadine. Adesso non hanno tagliato l'albero, non c'è più, ma allora c'era ancora, e Giuditta sotto quest'albero, non è a casa sua, è fuori, ripensa alla sua vita con leggerezza, perché questa liberazione, insomma, in qualche modo è avvenuta. Non ha rimpianti, non ha sensi di colpa, non ha nostalgia, e non è soltanto uno sforzo razionale, è autentico. Anche se le storie che lei ricorda e quindi racconta sono storie molto pregnanti, sono anzi storie di amori infelici, di amori controversi, di amori così particolarmente conflittuali, e quindi la sua vita, diciamo, le sue esperienze, e quindi questo lo ripropone nel libro, hanno un'altra, girano attorno a un altro principio importante, anche se sembra un simbolo, è il principio della fine, cioè della fine delle cose. Le cose hanno tutte una scadenza, dai beni, dagli alimentari alle medicine, insomma. Solo che le storie di Giuditta, gli amori di Giuditta, portano già i segni di questa fine all'inizio. Ma ciò nonostante, pur essendo lei in qualche modo consapevole, lei vuole vivere fino in fondo un'avventura, anche se sarà disgraziata, anche se sarà così portatrice di afflizioni, anche di dolori, di piccole frustrazioni, però non si tira indietro, anzi sembra quasi, come potrei dire, sembra quasi attratta proprio dalla difficoltà di certe situazioni che sono destinate a finire. Non a caso Giuditta ricorda queste sue tranche di vita, tranche de vie, come dicono i francesi, le ricorda proprio l'ultimo dell'anno, perché l'entità, la cosa che più di altre, insomma, è destinata a finire, oltretutto in modo anche molto rumoroso, in modo parabellico, con simulazioni di guerra, sotto bombe, sotto granate, sotto petardi, è proprio l'anno. Cioè, povero anno che è simboleggiato all'inizio, insomma, il primo di gennaio, come un roseo fanciullo, un bambino, nudo, con la fascia, con la scritta dell'anno entrante. Lui non lo sa, ma dopo 12 mesi, il 31 del 12, non ci sarà deroga alcuna, non ci sarà la possibilità assolutamente di procrastinare, prolungare, cioè muore. Oltretutto non solo finisce, ma proprio lo ammazza, ma suon di fuochi d'artificio, tutto quello che volete, ma insomma, è un, secondo me, proprio l'ultimo dell'anno simbolicamente con tutte queste manifestazioni di fuochi, sono effettivamente, corrispondono a un'uccisione, perché l'anno deve portarsi via tutto quello che di sgradevole può essere accaduto, e invece col primo di gennaio che rincomincerà questo radioso futuro, ma figuriamoci. Ecco, allora lei prende spunto da questa fine inesorabile, partendo dal suo ultimo della sua ultima esperienza sentimentale, che è la più sciagurata di tutte, ovviamente, e talmente sciagurata che lei racconta della felicità. Cioè, con questo romanzo l'autrice si chiede, insomma, esiste l'amore, esiste la felicità? Parrebbe di no. La felicità è breve, insomma, è anche una chimera per certi aspetti, forse non esiste nemmeno. L'amore anche è sempre mai assoluto, è sempre molto relativo, ci sono sempre molti condizionamenti che fanno sì che due persone si amino, si innamorino e continuino ad amarsi. E quindi lei ho perso il filo del discorso, no? Tracciando questo suo ultimo amore, che è stato appunto il più ricco di disgrazie e di infelicità, appunto ricorda la fine di questo amore come un periodo di grande felicità. Cioè, senza andare a scomodare Leopardi, ma cos'è la felicità e cos'è il dolore? Allora, quando si può essere felici? La felicità corrisponde anche alla fine di un dolore. Non è soltanto un sospiro di sollievo, una forma di così, liberazione per la buona, per fortuna infinita, no, c'è un'esaltazione. La fine di un dolore esalta dal punto che sembrerebbe quasi che la persona che è riuscita a sottrarsi a queste maglie troppo strette o rovinose di questo amore sciagurato sia innamorata, invece è il contrario, proprio perché è finito l'amore che lei è felice e riesce ad essere come potete dire, allegra e molto comunicativa, ma soprattutto ad occuparsi delle piccole cose, l'amore per la natura, gli animali, le persone, le amicizie, questo nuovo rapporto con gli uomini, per esempio, che non c'era in passato, che è l'amicizia, sgombra da ogni ambiguità, naturalmente, da ogni contaminazione di tipo erotico, no? Questo è un valore in più. Ecco, allora, la felicità, secondo l'autrice, le uniche pagine di felicità che Giuditta Riego, che l'autrice, scrive, sono quelle proprio della fine di un amore, a tal punto che, essendo questo amore finito gli ultimi giorni dell'anno, anzi un po' prima, all'accendersi delle luminarie, sapete che cominciano molto presto, verso il 20-25 di novembre, no? Lei coincide la fine di questa sua subordinazione maledetta, coincide proprio con questa illuminazione della città, e quindi anche gli anni successivi, anche negli anni successivi, lei vive questa celebrazione della sua felicità con tutto questo apparato, queste luminarie, questa atmosfera falsamente, tante volte falsamente lieta, no? Ma molto luminosa quantomeno, che coincide con le festività natalizie. Ecco, questo è una proposta, insomma, se qualcuno non avesse sperimentato la grande felicità, potrebbe capitare in questo modo alle persone un po', anche quelle più giovani soprattutto. Voglio dire, il caso ha voluto che questo amore fosse proprio l'ultimo, e per fortuna anche un colpo di grazia, dopo il quale ci si occupa di altro, della salute, soprattutto la pressione del sangue, le malattie cardiovascolari, il colesterolo, insomma, ci sono tante cose importanti di cui occuparsi dopo una certa età. Sì, ecco, allora questi amori non sono rievocati con un ordine cronologico, anche se a ritroso. Il primo è l'ultimo, si chiama Traguardo. L'ultimo è la partenza, dove lei racconta il suo amore i suoi amori di adolescente, soprattutto la temperia culturale degli anni 60, insomma, è di una persona come me, a quell'età già era già quasi adulta, oserei dire, insomma, voi siete più giovani di me forse. Ecco, è venuto dopo, ma gli anni 60 e 50 erano anni di molto rigorosi, molto severi, quindi in questo capitolo, che è l'ultimo ma che è l'inizio della vita sentimentale di Giuditta, c'era il grande valore della virginità, dell'illibatezza, qualcosa che si manifestava anche nel comportamento, non era solo un principio così decretato dalla Chiesa, no, ma anche da padri comunisti, no? Senza Dio, eretici, madri, lo stesso, quello che raccomandavano alle figlie era di salvaguardare la loro integrità fisica. Quindi allora era anche più difficile per certi aspetti vivere una storia d'amore, però forse era anche meno deludente, perché negli anni di mezzo, come si legge in questo libro, negli anni 80, dopo la liberazione sessuale, cominciano invece le grandi frustrazioni, no, della ricerca dell'amore attraverso il sesso, perché finalmente si può fare sesso, non è proibito, e anzi quasi obbligatorio, perché è proprio appunto la temperia culturale dell'epoca che aveva quasi decretato, insomma, dei dogmi, insomma, che proprio non dovesse neanche più esistere il pudore, no? Esagerando naturalmente, mettendo in difficoltà donne che invece avevano già mature, verso i 30, oltre i 30, verso i 40, che erano state educate in questa atmosfera degli anni 60, quindi monacale, proprio clericale, e non solo, minacciosa, piena di terrore, il terrore non solo di perdere la virginità, ma la gravidanza indesiderata. C'erano ragazze che temevano veramente di essere rimaste incinta, di avere concepito attraverso un rapporto non completo, insomma, perché c'è anche un po' di ignoranza, ma era talmente grande il terrore appunto di una gravidanza negli anni 60, anche quelli 70, prima della legge, finalmente questa legge che insomma, in qualche modo è stata anche liberatoria. Comunque, tornando alla cronologia di queste storie, Giuditta le ripensa un po' così, no? Salta, c'è un grosso salto dall'ultima, che corrisponde già quasi alla sua senilità, va cercando quella più importante. Qual è stata quella più importante, facendo una graduatoria, no? Volendola, col senno di poi si può stabilire anche con la razionalità, no? Qual è stato l'amore più coinvolgente, e lei lo trova, insomma, lo identifica in un uomo che naturalmente era già sposato, non solo era sposato, era un bel uomo, naturalmente con una moglie bellissima, figli bellissimi, queste famiglie da Mulino Bianco, allora si diceva, sembrava uscissero da un carosello. Naturalmente questo status di uomo non libero ma molto amato chiaramente non faceva che esasperare il pathos, esasperare la passione. Ecco qui la relatività dell'amore: l'amore non è mai assoluto. Se lui fosse stato un uomo libero, Giuditta l'avrebbe così amato? Lei si pone questa domanda: forse no, non così, non soffrendo quanto lei aveva sofferto. Ciò non toglie che quello che lei ricorda sono momenti molto pregnanti, e quindi sicuramente anche un uomo che lei ha stimato, perché ci sono uomini che lei ha amato senza stimare, questo sono cose che succedono alle donne, no? Di innamorarsi di uomini che palesemente sono, sì, avranno delle qualità, ma che sono magari inferiori dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista etico, no? Ma capitano, insomma, degli innamoramenti un po' bizzarri, sui generis, mentre quest'uomo era un uomo stimabile, salvo il fatto che fosse un bigamo. Ma la bigamia, poligamia, insomma, sappiamo che è un retaggio ancora ancestrale, perché la poligamia è quella che ha permesso anche alla nostra specie di crescere, di svilupparsi, di aumentare, perché fecondando più donne contemporaneamente più figli nascevano, insomma. È chiaro che oggi non credo che le motivazioni degli uomini nell'essere poligami, nel momento in cui sono poligami, hanno più donne, più di una donna, siano ancora di questo tipo antropologico, insomma, sicuramente è più legato ad altra. A queste forme di libertà che abbiamo in fondo conquistato, sono una conquista la libertà sessuale, sono una conquista sicuramente la libertà sessuale, e anche il fatto che la donna non sia più contrassegnata da infamia al momento in cui è una donna libera sessualmente. Magari, ecco, chiacchierando al bar ancora si può parlare di donne troppo libere, usando espressioni che io ho usato nel libro, ma non voglio dire qui a voi, insomma, pubblicamente. Insomma, ci sono stati grandi passi avanti, però contemporaneamente, per chi si è trovato come Giuditta, e anche me, diciamolo pure, a cavallo di queste due culture, una sessuofobica e l'altra invece cos'era? Addirittura esaltante il sesso e la libertà sessuale, si sono trovate anche con impasse, insomma, perché esattamente non sapevano quale fosse il loro autentico desiderio. E poi il libro procede con delle storie più relative sempre anche a una cornice, ecco, la cornice del rapporto con l'uomo sposato, che doveva essere appunto un rapporto trasgressivo, perché si usava, allora la trasgressione era quasi obbligatoria, fa riferimento agli anni 70, gli anni rivoluzionari. Io negli anni 70 ero già più che adulta e quindi avevo degli amici di lotta continua, no? E il sabato sera ero sola, non avevo un fidanzato, e andavo da questa mia amica che era sposata con un leader importante, no? Territoriale di lotta continua, adesso è diventato un banchiere nel frattempo, ma allora era un leader di lotta continua. Poi ce n'erano altri, non faccio nomi perché sono persone anche conosciute in città, che il sabato sera, invece di andare a ballare, insomma, si riunivano e discutevano di politica, e io andavo, pur di non stare solo a casa mia, andando a trovare la mia amica, la seguivo in questi luoghi che erano quasi sempre disadorni, squallidi, insomma, loro si riunivano. E a me sembrava un farneticare, non riuscivo a capire nulla di quello che loro dicevano, però era il periodo della rivoluzione. Che cosa vuole esattamente lotta continua? Chiese una volta a questo leader, dice, ma dice, noi dovremmo riprendere i tempi della lotta partigiana, della resistenza, riprendere le armi sostanzialmente. Quindi la lotta continua aveva come progetto una liberazione, una guerra armata, che ne dicano oggi, allora era così, si pensava, naturalmente è durata poco, fortunatamente, beh, poi qualcuno ci ha rimesso le penne, come il povero, come si chiama, quello che è stato accusato da Marino di avere dato l'ordine di uccidere Calabresi, famoso intellettuale, cioè, lo si legge un giorno sì, un giorno no, vabbè, lasciamo perdere, questo c'è, cioè, perché è stato in galera, insomma, l'hanno accusato vendicandosi, un operaio, uno che era, non faceva parte della classe intellettuale di lotta continua, ha denunciato e questo è finito in galera. Vabbè, comunque questi erano tempi in cui anche il comportamento, lo stile di vita in ambito sentimentale e sessuale si adeguava a quello che erano allora questi diktat anche un po' inquietanti, ma che erano comunque liberi e soprattutto contro l'establishment, contro le istituzioni, contro, ecco, salvo poi sposarsi in chiesa, portare la fede in caso di matrimonio, quindi poi queste persone che predicavano la libertà totale, assoluta, erano poi le prime invece a comportarsi in modo convenzionale laddove avrebbero vissuto una impasse di tipo personale. Ecco, poi ci sono altre temperie culturali, quella delle separazioni coniugali. Allora, quando io ero ragazzina o bambina, questo l'ho scritto, mi sembra, non so se nel libro sulla mamma, sì, in uno dei racconti, c'erano tre donne separate a Bolzano, tutto Bolzano, due erano di lingua tedesca, quindi non contavano, una era italiana e attorno a lei c'era veramente l'ostracismo, quindi le separazioni legali penalizzavano, sanzionavano la donna, anni 50, anni 60, l'uomo era come se non fosse neanche mai esistito, era lei col suo status di separata, di donna, quindi non più illibata, che chissà cosa avrebbe potuto combinare nella vita. E poi pian piano queste separazioni si sono diffuse, molto sorprendentemente direi, questo naturalmente è stato anche un prodotto dell'emancipazione femminile, quindi le donne vivendo, quindi finalmente avendo una loro autonomia economica, permettendosi quindi di poter vivere anche con il loro stipendio, di cambiare casa, eccetera, si separavano. Magari adesso gli mariti le uccidono, no? Gli ex quasi sempre ci hanno ripensato, invece di separarsi le ammazzano, così rimangono vedovi eventualmente, che è meno infamante che essere abbandonati. E quello era un periodo quindi in cui le donne nubili oppure separate a loro volta, varie zittelle singole, avevano delle nuove opportunità, insomma, di incontrare un uomo attorno ai 40, anche oltre, che libero. Per un breve periodo, però, ci voleva molto, molto tempismo per riuscire a infilarsi in questa. Questo periodo, questo interregno breve tra la separazione della moglie e la nuova compagna, quando non esisteva già prima, no? E questa dei separati, appunto, è una nuova, un nuovo vivaio, a tal punto che Giuditta dice che avrebbero dovuto esserci delle pubblicazioni anche delle separazioni coniugali, non solo di matrimoni, no? Per far sapere che c'era questo uomo libero, che insomma non era più sposato come prima, e quindi si poteva anche aspirare ad un nuovo rapporto di coppia. Però poi lei elenca tutti i difetti di questi uomini separati, no? Quelli che, essendo lasciati prevalentemente dalle donne perché per saturazione da menage, magari per gli uomini infedeli, via discorrendo, erano pieni di animosità, di astio nei confronti delle donne, erano diventati addirittura misogini, quindi incapaci di sentimenti autentici. Nella nuova partner cercavano solo il sesso, grande delusione. C'erano quelli poi affettuosissimi con i figli, con il cane, con i pesci rossi, con i canarini, e che non riuscivano a fare una sola carezza alla loro compagna, insomma, anche lì solo sesso. E poi c'erano, vabbè, questi cinici, quelli sempiterni che asserivano che loro bastava una donna solo, e la loro complessità non poteva essere soddisfatta dal rapporto, da un unico rapporto con una sola donna. Ce ne volevano di più, insomma, per ogni, era un pazzo, no? Ce ne avevano per ogni quadratino della loro personalità, ci voleva una tipologia precisa di donne. Ecco, questo perché questo libro è chiaro che non è tenero per gli uomini, insomma, ma certo gli uomini, non tutti, adesso non vorrei offendere qui delle persone molto per bene, per l'esperienza di una donna singola, quindi non di una donna che ha avuto un matrimonio, che può essere anche finito, ma che è durato un po', qualche anno, anche qualche decennio, che ha consolidato un sentimento. Giuditta non ha mai consolidato nessun sentimento, lei non è soltanto una vittima, è anche carnefice. Lei, i suoi fidanzati, li ha lasciati, più di uno, magari quelli, proprio quegli uomini che avrebbero potuto permetterle una vita serena, soddisfacente, un rapporto basato sulla stima, sull'amicizia e non solo sull'eros. E lei quelli non li ha voluti, insomma. Ecco, quindi questo libro è un po' dedicato a tutte le donne che nel corso di una vita ritengono di non aver incontrato l'uomo della vita, ritengono di essere state sfortunate perché non ho incontrato l'uomo giusto. Invece non è così, ci sono donne e anche uomini, ma io naturalmente non posso esprimere sentimenti, emozioni di tipo maschile, non me ne sono mai occupata e potrei dire delle castronerie. Invece le donne le conosco abbastanza, insomma, ne sono occupata quasi professionalmente. E quindi le donne sì, cercavano nel rapporto sessuale, anché con un turnover di partner, cercavano quindi l'amore, la stabilità. Giuditta no, perché Giuditta, quando si prospettava questo traguardo di serenità, di come poter dire, un cuore, un'anima che finalmente andavano a braccetto anche con la ragione, lei rifiutava e magari appunto si incappava in qualche storia strana con uomini esotici, giovani, che avrebbero potuto essere soltanto brevi relazioni balneari, quelle che lei però ha trasformato invece in rapporti duraturi, perché la lontananza, come poter dire, era proprio quella che decretava anche la continuità, a differenza di quello che si crede, insomma, che si deve stare vicini perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ecco, non è vero, il contrario, lontano dagli occhi si può essere molto vicino al cuore. Talvolta le distanze rendono meno problematico un rapporto, quantomeno non si litiga quotidianamente, insomma, alzandosi dal letto, dallo stesso letto, addirittura il letto sta altrove, sta in un altro continente. E poi c'è la sorpresa, che poi tale non è. Comunque, tra le varie forme di liberazione per cui ancora oggi stiamo un po' combattendo, ci sono quelle appunto dell'omosessualità, no? Quindi il coming out, il fatto che l'omosessualità maschile, quella femminile, un po' meno, possa anche essere dichiarata, e senza timore di essere linciati lungo una strada, come succedeva una volta, insomma, ecco, o denunciati. E Giuditta si innamora di un ragazzo che frequenta la palestra. Sono gli anni prima della crisi, no? Alla palestra, tutti andavamo in palestra, c'ero anch'io insieme a Giuditta naturalmente, pagando fior di quattrini per fare degli esercizi fisici terribili, sforzi titanici che non avremmo mai fatto se fossimo stati pagati. Invece in palestra andavamo a soffrire pagando delle tariffe altissime, e questa palestra naturalmente era la celebrazione della bellezza, perché le palestre erano frequentate da persone giovani, relativamente giovani, e tutti belli. Quelli che avrebbero veramente avuto bisogno di una palestra non ci andavano, sono mai andati, sono persone troppo sovrappeso, persone troppo magre, avevano tutti i corpi perfetti, uomini e donne. E c'era c'è un ragazzo che Giuditta conosce, insomma, e ha più di 50 anni ormai, però lei è attratta dalla giovinezza. Ecco, questo è uno degli altri, come potrei dire, scogli della vita delle donne, per cui ancora oggi non esiste parità nell'ambito del privato, diciamo. Se una donna può reclamare, non so, un avanzamento di carriera perché l'ha fatto anche il suo collega che fa il suo stesso lavoro e che quindi ha uno stipendio superiore, se lei oggi può reclamare ciò, no? Può pretendere di avere l'uguaglianza sia retributiva che professionale con un uomo, non c'è uguaglianza nelle relazioni sentimentali. Quanti uomini maturi impalmano loro ragazze, loro ex allieve, cioè, io conosco una serie di professori, tutti di filosofia, erano molto fortunati gli insegnanti di filosofia, che finalmente, quando la ragazza, la loro ex allieva, raggiunge i suoi 18 anni e anche un po' oltre, si sposano e fanno dei figli, cosa che non può fare una donna di 50 anni o 60 anni. Ecco, Giuditta sa che è un amore proibito perché è un uomo più giovane, e pensa che il fatto che lui non la corteggi sia dovuto al fatto che lei è molto più vecchia, insomma. Però il ragazzo dimostra simpatia per lei, lei spera di conquistarlo con l'intelligenza, no? Con i suoi saperi, parlano di politica, parlano di letteratura, di cinema, spera di colpirlo, no? Comunque con la sua maturità, così da mentore quasi, al contrario, mentore femminile. E un giorno gli si avvicina per proporgli un corso sulla nuova paternità, un corso per padri, sulla base di quello che dovrebbe essere la condivisione del lavoro di cura. Si dice, un termine sociologico, adesso non mi sto andando ad annoiare, ci sono anche delle leggi a questo proposito sui congedi parentali, e lei dice, vuoi venire, ti interesserebbe? No, non sono interessato. No, ma guarda che gli uomini celibi, anche uomini ancora non sposati, cioè con i loro figli, possono partecipare. In fondo è un'educazione alla paternità, un'educazione all'essere uomini in qualche modo. Cioè, ma io no, io sono gay. e Giuditta quasi sviene. Ecco, anche questo è capitato. E allora, ripensandoci, Giuditta dice: ma perché anche lui? E sì, perché nel cercare sempre nel voler raggiungere l'obiettivo più difficile, quello più faticoso, il percorso più accidentato, quello più doloroso, insomma, l'uomo gay è il massimo, cioè, perché è inconquistabile. Ecco, e così avanti. Poi c'è il periodo dell'adolescenza, della virginità, in cui io dico una cosa che scrissi una volta su una lettera al Venerdì della Repubblica, mi fu anche pubblicata, sulla virginità. Se le donne avessero potuto gestire la loro virginità senza la mediazione di preti, catechisti, parroci, padri, fratelli, ne avrebbero fatto un grande business. Di fatto la virginità era una qualità di un prodotto, del prodotto donna, che quando veniva venduto dal padre al futuro marito, appunto, non poteva essere una mela toccata con qualche macchiolina, doveva essere perfetta. Questa, la virginità ha sempre avuto un valore economico, sostanzialmente, perché i matrimoni si basavano su questo, no? Erano sempre matrimoni più o meno come si dice, dei matrimoni combinati, e sulla base anche di opportunità, cioè il negozietto vicino, quell'altro aveva il campo coltivabile vicino a quello del padre della ragazza, l'amore, se vogliamo, quello romantico, poi quello borghese, se vogliamo, è proprio è recentissimo, insomma, dalla metà 800 in poi che ci si può sposare sciogliendo anche il proprio partner, il proprio marito, il fidanzamento, eccetera, per quanto in alcune non culture inferiori, in quegli ambiti, quello mediterraneo per esempio, ai tempi della mia infanzia i matrimoni erano tutti combinati, anche le mie zie avevano sposato uomini che erano stati reperiti dalle famiglie, insomma, messi insieme, fatti sposare. Così succede ancora nelle società musulmane. E Giuditta, ma anche io devo dire, insomma, non dire che mi nasconda dietro Giuditta, ho frequentato molto la Tunisia e quindi privatamente, quindi, e mi sono accorta come anche lì matrimoni, donne molto emancipate che lavoravano, avevano un loro stipendio, addirittura uno era anche magistrato, un altro era avvocato, comunque si fossero sposate sulla base di una combinazione tra le madri, sono molto brave a trovare, le madri delle spose a trovare il marito, e una volta lo rifiuta, una seconda nemmeno, poi pure, e la terza quando cominciano ad avvicinarsi ai 26-27 anni accettano comunque qualsiasi matrimonio, perché l'uomo di cui sono innamorate magari è uno sfigato che non può garantire loro la sicurezza, insomma, di una vita familiare con la benedizione dei figli e via discorrendo. Ecco, adesso io non vorrei aver detto troppo, volete che vi legga qualcosa o preferite fare delle domande? Perché poi sostanzialmente questo è il libro, a parte i vari racconti, è la celebrazione della fine, l'ho già detto, quindi è un libro pessimista, molto pessimista, perché non racconta qualcosa di continuativo, no? Sono tutti episodi che possono avere avuto anche il loro momento di gloria, ma che hanno dovuto sottostare a una scadenza. Una scadenza non dovuta alla volontà divina, ma legata all'ordine delle cose. Per Giuditta, naturalmente non è che non per tutte le donne, ma insomma ce ne sono diverse Giuditte. Io, alla mia età, da donna singola, ho conosciuto molte altre donne singole oppure separate, eccetera, e mi sono accorta che effettivamente rimane questo sogno d'amore ancora, anche in età avanzata, e diventa patetico, sinceramente, dal mio punto di vista. Non so che cosa facciamo. Leggo qualcosa? Sì. Un po' d'acqua. Ecco il titolo del libro. Cosa c'entra Gli amici di d'inverno? Ah, ecco, sì, la metafora, è vero, la cosa importante l'ho dimenticata. I ciclisti d'inverno. Scusa. Chiedo scusa, ho un impegno. Ah no, non ti preoccupare, no, vabbè, ma tanto noi ci incontriamo prima o poi in Piazza delle Erbe. Lui è il sindaco di Piazza delle Erbe. Vogliamo più bassi. Vabbè, allora ciclisti d'inverno. Ma che carino, ma io te dovrei ringraziarlo, come posso fare? Lo posso telefonare al cellulare? Bene, grazie. Scusa. No, scusa, figurati. E, allora, io sono ciclista, quindi conosco la sofferenza del ciclista d'inverno che fende il gelo in pianura, andando anche pedalando, insomma, però resta il fatto che l'aria è quasi solida, è proprio il ghiaccio, sembra quasi di penetrare in un iceberg. Allora, che cosa auspica, insomma, il ciclista tutto intabarrato, coperto con piume d'oca, berretti di lana, eccetera? C'è l'unico è salire, una salita, perché con la salita si pedala in piedi, no? Quindi i muscoli delle gambe si riscaldano anche i muscoli delle braccia, perché si deve fare presa molto forte sul manubrio, si arriva, si fa anche, si riesce anche a cambiare la marcia, non so come si chiama, il rapporto della bicicletta. E arrivati alla fine, che cosa c'è? Alla fine poi, cioè, è salito, quindi c'è il premio, c'è la discesa, finalmente. Solo che la discesa d'inverno è tragica, perché è ancora più freddo. Il freddo entra da tutti gli orifizi, anche quello del corpo, non solo quello degli abiti. E questa è una metafora molto radicalmente pessimista, nel senso che non esiste la felicità, perché se anche per un attimo godi il piacere di stare ferma, non pedalare, con un corpo che si è riscaldato, non è più così, non rabbrividisce più come prima, sappi che poi comunque ci sarà la discesa. E se non c'è la discesa, c'è anche il precipizio, perché se è un altipiano, dagli altipiani si sa che si può cadere nella vallata. Se non si sta attenti, si può cadere nella vallata sottostante. Allora ho pensato di intitolarlo in questo modo, anche perché esprime, io sono una super pessimista, solo che non vorrei coinvolgere nel mio pessimismo persone, anche persone più giovani di me. Diciamo che il mio è un pessimismo molto ironico, ecco, quantomeno io stessa ci rido su, e mi auguro che anche altri possano riderne. Allora proviamo a vedere se posso leggere qualcosa di che sia. Sì, insomma, ecco. Questo è il primo in ordine di stampa, ma è l'ultimo in ordine di tempo. L'amore è Samir ed è un ragazzo di origine marocchina. Un pomeriggio andarono al cinema. Lui arrivò all'ultimo momento, rifornito di cibo e bevande. Giuditta si vergognò un po' di quel ragazzo che si portava presso panini e Coca-Cola in una sala cinematografica, ma la sua prestanza fisica attraeva gli sguardi più dello squallido sacchetto di nylon posato sulle ginocchia. Durante il film lui si avvicinò con la testa alla sua spalla e lei sentì quel tipico odore di maschio non pulito, insomma una sorta di effluvi di testosterone misto a forfora di capelli e di colletto di camicia non lavato. E lui era un bellissimo ragazzo. Il film trattava il tema della migrazione, scelto di proposito per lui parzialmente straniero. Ma se sullo schermo fossero apparsi Paperino, i marziani o dei cowboy, pensò Giuditta, avrebbe fatto poca differenza. Il film si chiudeva durante i titoli di coda con una bellissima canzone, La Vent nous portera, di Noir Désir. E a quel punto Samir emise le sue prime parole, le sue uniche parole. «Senti, è francese», disse, e Giuditta temette che fosse l'unica cosa da lui compresa in tutto il film. Non il testo della canzone, ma la lingua a lui familiare. Samir era vissuto prevalentemente nella Svizzera francese. Lì aveva studiato per diventare cuoco, la professione che diceva di esercitare anche in Italia. Dopo qualche tempo Giuditta, stanca di attendere telefonate che arrivavano ad ore impensabili, di bugie circa le sue chiamate che in realtà non apparivano nel telefonino, chiuse drasticamente con lui, con un messaggio duro ma anche ragionevole. «Sono troppo vecchia per te», gli scrisse, e lui non richiamò più. Dopo qualche settimana si rincontrarono casualmente nel centro della città. Lui era insieme alla sua famiglia, madre, padre, sorella e fratello, a fare shopping natalizio. «Ciao», disse Giuditta, che nel vederlo ai tante, si pentì quasi della chiusura precipitosa della loro storia. Samir le presentò solo il fratello, un ragazzo giovane, autentico cittadino italiano, che frequentava il Politecnico di Milano, la facoltà di ingegneria, e con notevole successo. Ali, quello era il nome del fratello, studente modello, che si pagava gli studi lavorando tutta l'estate e fungeva un po' da credenziali per Samir, intellettualmente assai precario e apparentemente sfaticato. Allora, ciao, ripeterono ambedue, ci si vede. Così Giuditta fu favorevolmente colpita, non certo perché avesse dei pregiudizi nei confronti di marocchini, ma sicuramente l'instabilità esistenziale di quel giovane l'aveva disorientata. C'erano alcune stranezze nei suoi rapporti familiari, magari comuni per la sua gente ed improponibili per noi, improbabili per noi. Il padre di Samir non era suo padre, era il fratello maggiore che l'aveva adottato dopo la morte del padre anziano. La madre di Samir non era sua madre, la vera madre viveva in Marocco. La mamma cognata di Samir era addirittura italiana, convertita all'Islam dopo aver sposato il fratello padre di Samir. Della sorella non capì bene i natali, era stata adottata anche lei, era figlia della madre italo-marocchina, non volle approfondire, pensando che quella relazione in fondo non la riguardassero. Finalmente Giuditta riuscì a invitare a cena Samir, solita spaghettata ma innaffiata da un ottimo spumante. L'appuntamento a casa sua era per le 7, lui si presentò alle 9. Furono, concetto di tempo, è molto occidentale, furono invertiti i rituali tradizionali. Prima di cena consumarono un po' di sesso finalmente. Dopodiché Samir si lavò sotto la doccia per quasi mezz'ora, strofinando i suoi genitali come se fossero stati contaminati da materiale radioattivo. E Giuditta si chiese perché al cinema lui puzzasse, dato il suo iperigienismo. Nel lavarsi freneticamente, Samir citò spesso il Corano, nelle sue proibizioni, nei suoi comandamenti, e Giuditta si rese conto come quel testo sacro fosse reso funesto dall'infinità di scempiaggini che ogni uomo poteva costruire a suo uso e consumo. Consumatosi nel frattempo le pudende a colpi di spugna, quando finalmente avrebbero potuto mettersi a tavola, suonò il cellulare di Samir. Parlò brevemente, in arabo, e poi disse: «Ah, devo andare per portare mia sorella al lavoro a Merano, alle 11 di sera. Torna se fai in tempo», gli disse lei, mentre lui usciva, ovviamente non tornò. Ecco, questo, volevo, la storia va avanti, no? Con questo individuo così precario dal punto di vista esistenziale e intellettuale, Giuditta affronta un viaggio, cioè lui le offre un viaggio e lei non le parveva, la prima volta che un uomo si vuole caricare tutte le spese anche, no, per questo viaggio, aereo, trasporto, macchina noleggiata, l'albergo, insomma, vabbè, incomincia questo viaggio. Si dice che il viaggio sia già parte integrante della vacanza, in particolar modo se si viaggia con un compagno. In treno Samir si sedette lontano da lei, accanto ad un conoscente ed una ragazza ai quali illustrò probabilmente il suo viaggio attraverso una guida turistica, uno dei pochi, o forse l'unico libro che avesse mai maneggiato. Così, fino al cambio del treno, che avvenne in una stazione ferroviaria dell'antico Far West. Non so se avete mai cambiato, avete preso la coincidenza, non mi ricordo più come si chiama il paese, il treno che porta a Bergamo. Si deve scendere in un paesino, un treno, infatti non si può prendere una freccia, per chi vuole andare a Bergamo deve prendere un treno normale, regionale, scendere. Io non ho mai visto una stazione così isolata, squallida, ma veramente sembrava di essere fuori dal mondo, per quello l'ho citato, e voi capite che la mia esperienza personale naturalmente, ma d'altra parte entro, non posso nascondermi dietro un dito. Dall'antico Far West, dove salirono su di una specie di littorina in cui l'unico passeggero era un tunisino. Quale occasione più ghiotta per Samir per umiliarla ancora, conversando con lui soltanto con lui in arabo? Ma il tunisino era un gentiluomo che conosceva perfettamente l'italiano, e Giuditta approfittò per intromettersi parlando della Tunisia che lei aveva a lungo frequentato. Partirono dai luoghi bellissimi, le spiagge ampie, per passare poi a questioni sociali, fino ad arrivare al famigerato Ben Ali, allora ancora al governo. Sempre appetitosa era la storia di lei, la prima amante e poi coniuge del premier, donna avida di denaro e di potere. Man mano che la conversazione procedeva, Samir cambiò più volte sguardo. Una leggera tolleranza all'inizio, un accenno di riprovero poi, fino al furore di uno sguardo le cui braccia, accendendosi per rabbia, stavano diventando un falò. Giuditta continuò decisa a vendicarsi della sua caffoneria sul treno precedente. Aveva capito che ormai era in ballo e doveva ballare. Scesero a Bergamo. Samir non fece in tempo ad esplodere perché l'albergo prenotato era esattamente di fronte alla stazione. Cenarono in un ristorante, poi nella camera, finalmente in un grande letto matrimoniale. Nella casa di Giuditta il letto era ad una piazza in mezzo. Fecero agevolmente all'amore. Era difatti accaduto che il bel letto di Giuditta, stile falso 800, quindi fragile, si fosse rotto per ben due volte per eccesso di peso e che gli amanti si fossero trovati per terra a metà amplesso, ricorrendo al pronto intervento artigianale di altri marocchini allertati in piena notte. Questo è successo veramente. Ecco, questo poi... Se volete, vediamo se c'è qualcosa, perché chiaramente non devo andare a pescare. Sì. Allora, questa è la storia, il grande amore, l'uomo che era già sposato. Sì. Allora, lei inizialmente non lo sapeva, in realtà lo sapeva benissimo. Una sera, ad una prima teatrale a cui era stata invitata, Giuditta si agghindò in totale contrasto con l'ideologia professata, perché sapeva che lo avrebbe incontrato. Non portava l'eschimo, ma un grazioso soprabitino rosso molto visibile. Come Berlusconi, anch'io la mascella che non ubbidisce. Non portava l'eschimo, ma un grazioso soprabito rosso molto visibile, un auspicato richiamo d'amore, e difatti fu lui che la vide per primo. Le si avvicinò accompagnato da una signora in visone che certamente non era la sorella. Giuditta conosceva di vista quella donna, avendola ammirata in varie occasioni mondane, pre-rivoluzionarie, balli sociali, spettacoli e feste in cui lei era stata incoronata Miss di fronte a un pubblico plaudente. Spiccava sempre in tutto il suo splendore, in ogni contesto, bionda, lunghi capelli, un viso dolce ma volitivo, un sorriso che illuminava l'inverno, un corpo slanciato ed un abbigliamento che lo valorizzava senza essere mai volgare. Anche la voce era vellutata. Nel parlare sembrava volesse accarezzare l'interlocutore, maschio o femmina che fosse. La seduzione fatta persona. Se volevo andare avanti con questo, perché non vorrei ditemi se vi faccio sbadigliare, impossibile. Allora, vabbè, quindi Paolo era sposato, anche se non portava la fede coniugale, probabilmente l'unica piccola concessione alla fede marxista, e probabilmente lui, graneticamente laico, si era pure sposato in chiesa. Ed era facile capire come lei, capace di catturare l'attenzione anche dell'ultimo dei misogini, non conoscesse la gelosia. Come sempre accade, di fronte agli svelamenti che ci rimuovono il sangue, si dice che già lo si sapeva, soprattutto in ottemperanza a quella buona dose di pessimismo che ci portiamo appresso. C'è una scena in un delizioso film di Woody Allen in cui una donna dice ad un uomo fascinoso ed intelligente che di lei si è innamorato: ma quando mi dirai che sei sposato, che sei un serial killer, che hai ucciso tua moglie facendola a pezzi per metterla nel frigo? È un pessimismo degno di Woody Allen. Il pessimismo di una donna, alter ego del regista, che non crede ad una casualità felice, ad una coincidenza fortunata, capace di trasformarsi in una storia d'amore. Ma tra Paolo e Giuditta non c'era stato ancora niente. Lei non svenne, non balbettò durante le presentazioni, non proruppe in una risata sarcastica pronta a trasformarsi in un pianto isterico. Giuditta conosceva le convenzioni borghesi, dettate semplicemente dalla buona educazione. No, Giuditta sapeva recitare. Piacere Lea, piacere Giuditta, ma non finì tutto lì. Lo sforzo razionale adrenalinico fece dire a Giuditta, ormai in scena, Lea, bel nome, evoca Leo il leone, quindi Lea la leonessa, una battuta pietosa. Dopodiché fortunatamente scese un silenzio tombale e la campanella del teatro segnalò l'inizio del secondo atto. Questa è abbastanza lunga. Adesso io vorrei sì, beh, questo sugli uomini sposati ve l'ho già separati, ve l'ho già raccontata. Invece c'è qualcosa che a me sembra grazioso. Sì, è l'adolescenza. Giuditta 16-17 anni, che parla anche delle colleghe, delle dinamiche, insomma, un po' di gelosia, insomma, a quei tempi in cui di verginità coatta comunque. Invece Laura era una che la dava, una ragazza che a 17 anni già scopava, anche se allora non si usava quell'espressione. L'allusione all'attività sessuale diveniva nella sua locuzione meno volgare trombare. Scusate, ma questa è storia. Le donne come Laura segnavano una linea di demarcazione tra noi e loro. Noi cattoliche o laiche, comunque perseguitate dallo spettro della perdita delle verginità con conseguente gravidanza, più che indesiderata si potrebbe dire dannata, e le altre più libere che trombavano ed erano abbastanza puttane. Laura si sposò molto presto con un outsider della banca, appartenente alla schiera molto ambita dei tecnici dediti alle prime forme di meccanizzazione, antenate dei computer, di cui allora non si conosceva l'esistenza dei computer. Erano tutti giovani e belli, e o almeno questo pareva alle maritande di allora, stanche delle solite facce dei colleghi. Quello che impalmò Laura era particolarmente attraente e lei, consapevole dell'invidia suscitata, non perdeva occasione di sbacciucchiarlo in pubblico. Dopo 6 mesi Laura ebbe un bambino, a conferma di quello che di lei già si sapeva. Poi, dopo aver utilizzato tutti i congedi possibili di maternità, si licenziò per seguire il marito a Milano. E questo è un innesto un po' di sociologico. Ma anche i matrimoni seguiti da concepimenti, grazie di Dio, quindi con prole che vedeva la luce dopo 9 o 10 mesi, decretavano la fine del rapporto di lavoro con la banca da parte delle neomamme. Oggi quei licenziamenti da un posto fisso a tempo indeterminato, con ottima retribuzione e conseguente ottima pensione, parrebbero dei suicidi. Allora nemmeno si parlava di conciliazione lavoro-famiglia e le donne finalmente maritate sapevano di aver raggiunto il loro traguardo, ovvero il matrimonio, a tal punto che alcuni licenziamenti avvenivano prima del soggiungere della prole, del sopraggiungere della prole. In quegli anni l'emancipazione e quindi un reddito proprio serviva alle donne per aiutare la famiglia d'origine. Dopo, per volontà divina, a loro avrebbe dovuto provvedere il marito. Ma anche a quei tempi remoti capitava che qualche matrimonio andasse in malora. Le separazioni mettevano le mogli sul lastrico, che tornavano quindi imploranti e piangenti a chiedere la riassunzione. Correvano ancora gli anni del dottor V, il capo del personale con amante fissa e collezionista di avventure galanti con le sottoposte, ma lui era il più inflessibile, diciamo pure il più cattivo. E quando mai un'azienda torna a farsi carico di donne provviste di utero, quindi a rischio congedi per maternità, quando già non avevano marmocchi, per cui obbligate a pretendere permessi, assegni familiari e quant'altro? Un giorno Giuditta, zitella, retribuita, incontrò sulle scale di quell'imponente edificio Brigitte, che era sempre stata la più carina della banca, con tutto il corredo di pettegolezze che la sua bellezza e la sua libertà potessero evocare. Si era sposata anche lei e dopo il primo figlio si era licenziata. «Che fai qui, Brigitte? Sai, mi sono separata da mio marito ed ho inoltrato una richiesta di riassunzione. E com'è andata? Oh, l'hanno respinta, ma sono stata io a sbagliare. domani chiedo un colloquio privato col dottor V e so come fare con lui. Povera Brigitte, pensò Giuditta, sai quanto se ne fregherà il dottor V di te, anche se tu sei stata un tempo gentile con lui, una sveltina. Il termine allora era già in uso, non vale una riassunzione, in primo luogo perché gliel'hai già data e lui può consumare altre sveltine con chi gli pare. In realtà, in quei tempi pregni di sessofobia, moralismo cattolico e verginità coatta, non erano né facili né diffusi gli scambi tra sesso e lavoro. In primo luogo, in un'azienda seriosa e bigia e un po' sburgica, un po' nazista come quella banca, che tra l'altro si fregiava del titolo di ente morale, dottor V a parte. Che hanno capito tutto, le mie ex colleghe, scusa tuo padre, che no, ma queste erano storie che rimanevano nel chiuso degli spogliatoi. Ecco, poi io non mi esprimevo così allora, mi esprimo adesso, certamente, a parte la volgarità del darla, la sveltina, eccetera. Io mi stupivo comunque già allora che loro si licenziassero. Devo dire, benché fossi anch'io una credente praticante, insomma, cioè, credevo nel matrimonio, cioè, mia madre anche, che era stata a sua volta anche lei impiegata della cassa di risparmio, licenziandosi dopo il matrimonio, addirittura prima che io nascessi, e pensava che anche a me sarebbe andata così, che avrei trovato marito e mi sarei licenziata dalla banca per fare la mamma, la casalinga. E io mi stupivo, perché mi pareva proprio che non fosse il caso, ma se fossero licenziati da un impieguccio, la banca, non si dice qual è, insomma, era molto generosa in fatto di stipendi e anche dal punto di vista pensionistico erano tempi aurei quelli. E però le donne che si sposavano erano anche invidiate, perché si riuscivano a sposarsi. Una che Marta, la mia collega e amica in fondo, ricordo benissimo sicuramente, ma non dico il nome, si sposò a 26 anni, quando tutte le altre si erano sposate sopra i 20, 21, 22 al massimo. E mi ricordo il commento di una collega matura, già sposata, quasi pensionanda, dice: beh, le è andata bene, perché quella lì ormai la rischiava di rimanere zitella, eh. A 26 anni sono quasi adolescenti ancora. A 26 anni sono a casa ancora. Sì, sono quasi adolescenti. No, ma nel senso che fanno tutto, no? Fanno anche sesso, chiaramente. Ma l'idea della sistemazione, matrimonio come sistemazione, è stata molto potente. Guardate, io che sono nata nel 1946, io l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi potete immaginare cosa avrebbe potuto essere la mia vita di singola se io avessi tenuto in considerazione quelle che è quella mitologia, no? Che era tale sul raggiungimento, il coronamento del sogno d'amore attraverso il matrimonio, la famiglia e i figli. Io avrei dovuto suicidarmi, invece no, perché poi la vita è fatta anche di altre cose. Non era forse solo anche sistemazione, ma anche liberazione, no? Perché sì, la liberazione delle donne a volte, paradossalmente, è passata anche attraverso il matrimonio, perché in casa non potevano fare niente, non potevano uscire, non potevano andare al cinema, non potevano andare a uscire con il figlio, dovevano stare bene a guardia del corpo. A un certo punto uno si sposa e dice: ma adesso non devo più rendere conto a nessuno, posso andare al cinema come un marito e avere una vita... Sì, questo è vero, il marito democratico naturalmente, e poi si possono fare le cose insieme, e chiaramente ci sono poi dei legami, tu lo saprai, quando cominciano a nascere i figli, perché allora seriamente c'è minor libertà. Però la nascita dei figli, io ne so nulla, ma so per esperienza altrui, è qualcosa di così potente dal punto di vista affettivo, diciamo anche relativamente alla felicità, che io non ho mai sentito delle donne lamentarsi che i figli, circa i figli che impedivano loro di fare, di uscire la sera a fare follie o qualcosa del genere, no? Diciamo che erano sempre state donne ben, non malmaritate, ben maritate, con i mariti che restavano a casa insieme a loro, però c'erano anche i mariti che uscivano innocentemente con gli amici, andavano a vedere la partita di hockey, no? Loro si mettevano d'accordo, sarebbe rimasta a casa lei quando lui andava a vedere la partita di hockey, e sarebbe rimasto a casa lui la sera quando lei andava a teatro. Ci sono gli accomodamenti, ma dei matrimoni felici, naturalmente, certo. Poi sappiamo che può accadere di tutto. Io porto un'esperienza singola e singolare, perché non è applicabile. Perché Giuditta ha avuto paura poi di sposarsi? Com'è? Perché questa Giuditta ha avuto paura di sposarsi? Non di sposarsi, neanche di fidanzarsi, non si è neanche mai fidanzata realmente, perché i suoi amori, quelli di cui lei è stata questa carnefice. Allora vuoi che ti legga l'ultima frase, perché non voglio, vi leggo l'ultima parte perché è il finale, è la chiave di lettura sostanzialmente. Allora, ora a distanza di oltre 50 anni, Giuditta si chiedeva perché. Perché quel profluvio di meriti, parla del suo primo ragazzo, era andato perduto? Perché lei non li accolse come pregi da compagno ideale di una vita qualsiasi ma particolarmente la sua? Sarebbe stato anche il partner ideale, ideale per pedalare in pianura, in salita e in discesa, da fare in tandem, finalmente insieme. Eppure lei lo lasciò, non subito. Attese l'autunno, le foglie dorate, i larici in fiamme, il sole che pian piano si allontanava, disegnando per il momento soltanto ombre lunghe, ombre umane che ancora una volta deformavano i corpi prima dell'oblio, prima della rinascita. Seduta su di una panchina, vide passare molti cani, labrador soprattutto, dallo sguardo dolce, dallo sguardo sottomesso, dallo sguardo implorante amore, lo sguardo di Giorgio. Mentre lei lo stava lasciando, perché? Pareva chiedere ancora lui, e lei rispose: perché una fata cattiva mi ha fatto un incantesimo di quelli che neanche il principe azzurro può rompere per sempre. Giuditta, tu mi spezzi il cuore. Questo l'ho scritto in maiuscolo perché è una frase che mi è rimasta impressa per tutta la vita. Adesso che ho 70 anni ancora la ricordo e ricordo questa scena, perché io ho provato una infinita compassione per questo ragazzo. Furono le ultime parole di Giorgio, prima che lasciasse la panchina e si allontanasse da solo, mentre lunghe gambe disegnate dall'ombra divenissero infinite, come quelle di un gigante sconfitto. È una fata cattiva, è una nevrosi, è una, un'inclinazione. Noi possiamo chiedere perché gli uomini, per esempio, ci sono uomini inguaribili, Don Giovanni, che non riescono a fermarsi, a differenza delle donne che non si sposano, non si vogliono sposare, accettano anche di vivere sole, avendo magari delle storie ogni tanto qua e là, magari in vacanza, ma dedicandosi ad altro rispetto della famiglia, insomma, no? In sostituzione della famiglia. Uomini invece che passano da una donna all'altra incapaci di affezionarsi, di amare. Sono motivazioni diverse probabilmente quelle che impediscono alle donne e agli uomini di amare, sono motivazioni diverse, hanno origine nei primissimi anni dell'infanzia, il rapporto con la madre, ma questo non è un libro di psicanalisi, quindi io posso intuire, ma non certo dare delle spiegazioni, a parte che non ci sono, perché ogni singolo individuo, anche se ha un comportamento simile a quello di altri, ha comunque una sua complessità che è del tutto individuale, del tutto personale. Cioè, la felicità è una faccenda complessa, com'è che diceva, cioè al titolo di un film, anche l'amore è una cosa molto complessa per le persone che non lo riconoscono o ne hanno paura. Lasciare un uomo quando pare che si sia spento il desiderio, l'eros cosiddetto, in fondo è una paura, è la paura di un amore che potrà instaurarsi diverso, solido, fermo, concreto. Penso che sia una sorta, questo vale per gli uomini anche per le donne, di paura dell'amore. Pensando alla mia mamma, effettivamente io potrei aver avuto anche qualche buona ragione per avere paura dell'amore. Grazie. vabbè, insomma, era ovvio che avevo preso spunto da me, anche se molti sono personaggi di finzione, sono, no, ci sono tante cose aggiunte.